Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Draghi alla BCE, la svolta della Merkel, la Germania potrebbe sostenerlo. Opal, Actalis, Parmalat perquisite a Milano, le sedi delle società coinvolte nella scalata. Amministrative alle porte, il faccia a faccia a Milano tra Moratti e Pisapia finisce senza stretta di mano. OCSE, l'Italia ha salari tra i più bassi e carico fiscale tra i più alti. Buona giornata dalla redazione da Anna-Rita D'Ambrosio. Tra pochissimo parleremo di Grecia, che ha ottenuto anche il sostegno tedesco e che oggi è in sciopero. Ma in apertura andiamo subito in Germania per l'ultima ora che avete sentito anche nei nostri titoli, ovvero l'appoggio della Merkel alla candidatura del nostro Mario Draghi alla presidenza della BCE. Noi ci colleghiamo in diretta con Beda Romano. Beda. Sì, buongiorno. Beh, dunque è arrivato a sorpresa perché se ne era tanto parlato, però una presa di posizione definitiva da parte della Merkel non c'era ancora stata. No, non c'era ancora stata, è arrivata attraverso un'intervista a un settimanale di Zeit, che in realtà sarà in edicola nelle prossime ore. La frase della signora Merkel è abbastanza esplicita, non è definitiva come nello stile del cancelliere. Ha detto che la Germania potrebbe sostenere Mario Draghi, però è in fin dei conti il sostegno che il governatore della Banca d'Italia stava aspettando a questo punto, perché la Germania era l'unico dei grandi paesi della zona euro che ancora non aveva esplicitamente sostenuto il governatore della Banca d'Italia nella corsa alla presidenza della Banca Centrale Europea. A questo punto bisognerà aspettare probabilmente giugno e il via libera definitivo del Consiglio Europeo. Nel frattempo la settimana prossima ci sarà una riunione dei ministri finanziari della zona euro. Insomma, questi due passaggi saranno quelli definitivi. Mario Draghi poi, se tutto va per il filo, per il verso giusto, prenderà la posizione di Jean-Claude Trichet a Francoforte, alla presidenza della Banca Centrale Europea, dal 1° novembre di quest'anno. Senti, per la Merkel questo è un periodo di grandi cambiamenti dal punto di vista interno? È un momento difficile evidentemente per la signora Merkel. Nei sondaggi la maggioranza democristiana liberale non va bene, è chiaramente in difficoltà. In parte probabilmente questo tira e molla sul futuro presidente della Banca Centrale Europea è dovuto anche alle difficoltà interne del governo. Il governo a questo punto deve fare un mini rimpasto, perché ci sono dei cambiamenti nel Partito Liberale. Verrà nominato alla fine della settimana un nuovo presidente, che è Philipp Rösler, un tedesco di origine vietnamita. Questo signore diventerà ministro dell'economia, è stato finora ministro della sanità, e quindi c'è un mini rimpasto all'interno del governo. La speranza della maggioranza democristiana liberale è che questo mini rimpasto e il congresso del Partito Liberale alla fine della settimana possano segnare una svolta per il governo. In altre parole, fare tabula rasa degli ultimi mesi che sono stati estremamente difficili e cercare di a questo punto puntare con un po' più di tranquillità alle prossime elezioni che sono nel 2013. Grazie a Beda Romano in collegamento con noi dalla Germania. Abbiamo parlato all'inizio del sostegno tedesco anche al piano greco. Allora adesso accendiamo un focus proprio sulla Grecia, lo facciamo e lo ringrazio per essere qui accanto a me con Vittorio D'Arolda del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a voi. Vittorio, allora oggi è un giorno particolare perché è il giorno del nuovo sciopero generale contro il piano di austerity, all'indomani di queste voci sul nuovo pacchetto di aiuti. Che situazione si sta vivendo? Allora, la situazione è di tipo sociale molto acuta. Questo, ricordiamo, è il decimo sciopero generale dalla firma del memorandum che è avvenuto esattamente un anno fa. In quell'epoca appunto la UE con il Fondo Monetario e la BCE, la Troica, la cosiddetta Troica, decisero di dare 110 miliardi in 3 anni per sostenere il fabbisogno della Grecia, che non era più in grado appunto di restituire i soldi a chi glieli aveva prestati. Questa era la situazione, quindi la Grecia era un anno fa esattamente in default. Poi l'Unione Europea, ricordiamolo però con molta difficoltà, riuscì a dare questo aiuto, di dare decise appunto anche delle nuove strutture, dei fondi che non esistevano. Qualcuno a quell'epoca addirittura non voleva nemmeno che si fosse l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale per un orgoglio europeo di quel tipo. Alla fine si decise di dare un aiuto di 2/3 sull'Europa, con diretti anche prestiti dei paesi che dovevano appunto aiutare, e 1/3 con il Fondo Monetario. Tutto questo però non è bastato, non basta perché? Perché nel 2012 mancano appunto all'appello 30 di miliardi per restituire appunto ancora i prestiti. Sappiamo che i prestiti sono all'80% tutti in mano a stranieri, quindi non a greci. Quindi questa è la vera situazione. Nel caso in cui ci fosse un default, sarebbe un default che andrebbe a colpire banche francesi in prima fila, banche tedesche e fortunatamente molto poco le banche italiane, ma questo creerebbe il cosiddetto effetto domino, e quindi questo è il vero problema per cui i tedeschi probabilmente hanno fatto questo ragionevole cambiamento di programma. Questo sostegno dal punto di vista sociale, Vittorio, noi abbiamo assistito a degli scontri anche molto violenti qualche tempo fa in Grecia. Secondo te possono riverificarsi in questo momento? Potrebbero riverificarsi nel momento in cui per questo nuovo piano, questo nuovo allungamento del debito, ci dovessero essere ulteriori richieste di sacrificio. Attualmente la situazione in Grecia è molto molto difficile socialmente. Ricordiamo che abbiamo una meno 4,5 di caduta del PIL, la disoccupazione viaggia al 15%, anzi oltre il 15%, e arriva al 30% per i giovani. Quindi una situazione effettivamente, diciamo, di grossa tensione sociale, di esplosiva tensione sociale. Ci sono poi, diciamo che tradizionalmente la società greca ha una forte componente anche estremista, anarchico-estremista molto, molto sentita, e quindi tutto questo fa prevedere che se ci fossero ulteriori manovre, diciamo così, lacrime e sangue, questo sarebbe difficilmente sostenibile per il governo Papandreou. Grazie a Vittorio Darold per questi chiarimenti. Noi parliamo di salari e di tasse invece in Italia, come riferisce un'indagine OCSE. Piccolo segnale positivo sul fronte salari. L'Italia resta sempre in fondo alla classifica OCSE dei salari medi, ma guadagna una posizione. Sale infatti dal 23° al 22° posto, superando la Grecia. Ma a parte questa magra consolazione, i salari italiani risultano tra i più bassi e i più tartassati dal fisco. Il salario netto medio di un single senza figli a carico in Italia è stato di $25.000 nel 2010, una cifra inferiore sia alla media OCSE che a quella europea. Mentre sale il peso delle imposte sugli stipendi, il cosiddetto cuneo fiscale, che calcola la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto effettivamente finisce in tasca al lavoratore, in Italia è al 46,9%, mentre nel 2009 si attestava al 46,5%, un aumento dunque di 0,4 punti percentuali. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Thyssen Confindustria chiede scusa, quell'applauso è stato sbagliato, ha detto il direttore generale Giampaolo Galli intervenendo questa mattina sulla 7. Galli ha ricordato che durante l'assise di Bergamo sabato, che si è tenuta a porte chiuse, ci sono stati 2 applausi. C'è stato un applauso molto intenso alla presidente Marcegaglia quando ha detto con grande forza: ogni incidente sul lavoro, ogni morte sul lavoro è una sconfitta per l'impresa, quindi questo è un punto molto chiaro e molto forte per noi. Credo di poter dire a Boccuzzi e a tutti che l'applauso all'amministratore delegato di ThyssenKrupp sia stato sbagliato, inopportuno. Colgo questa occasione per chiedere scusa a nome di Confindustria, ai familiari delle vittime e a tutta l'opinione pubblica che si è sentita colpita ed offesa. Quell'applauso va però forse capito, diciamo, perché è stato un applauso spontaneo in una platea di 6.000 imprenditori. Perché c'è stato quell'applauso? Perché le imprese si trovano in una situazione, sono preoccupate per una situazione di estrema incertezza del diritto in Italia, che riguarda questa questione, riguarda tante altre questioni. E la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, nei prossimi giorni a Torino incontrerà i familiari delle vittime della Thyssen, lo riferisce il deputato del PD Boccuzzi, che è l'unico sopravvissuto di quella strage. L'altro fronte in primo piano oggi riguarda il Palazzo di Giustizia di Milano, con il quale ci colleghiamo, il caso Parmalat sotto i riflettori. Raffaella Calandra. Sì, non solo aggiotaggio ma anche insider trading. L'inchiesta sulla scalata Parmalat Lactalis si arricchisce infatti di una nuova ipotesi di reato, di documenti acquisiti nelle perquisizioni di oggi e forse, ma questa è una discrezione che vi diamo, ma è ancora da verificare, anche dei primi indagati, pare 4. Questa mattina infatti gli agenti del nucleo valutario della Guardia di Finanza di Milano da questa mattina stanno perquisendo le sedi milanesi delle banche Intesa San Paolo, Société Générale, Credit Agricole, l'advisor Lazar e le società di comunicazione Image Building e Brunswick, tutte cioè quelle coinvolte nella vendita a fine marzo del 15% di Parmalat a Lactalis, un'OPA costellata, lo ricorderete, di discussioni e polemiche politiche o finanziarie e che ora dunque si arricchisce anche di nuovi contorni giudiziari nel fascicolo del PM Eugenio Fusco, lo stesso che si era occupato delle inchieste sulla crack della Parmalat. Era un fascicolo fino ad ora contro ignoti per aggiotaggio, ma ora il fatto stesso che sia stato contestato un reato come l'insider trading, che è un reato personale, cioè il fatto di aver fatto circolare informazioni privilegiate, fa effettivamente supporre che ci siano degli indagati, ma saremo più precisi nelle prossime edizioni di edizioni GR. Certo. Raffaella, intanto oggi si è aperto il processo Le Cosche dell''Ndrangheta a Milano, un processo simbolicamente importante. Certo, perché è, possiamo dire, il maxi processo all''Ndrangheta del Nord, è il processo ai presunti vecchi boss, quelli legati ai vecchi riti di Cosa Nostra, ma anche ai quadri più alti delle cosche calabresi insediate in Nord, quelli presenti nelle società o nelle ASL di quella Lombardia che nella geografia ndranghetista, come il maxi blitz della scorsa estate ha portato a galla, pesa particolarmente. Un processo che si è aperto e che in questo momento, di cui si è chiusa in questo momento la prima udienza, e che vede qui imputati 39 persone che hanno scelto il rito ordinario, mentre altre 137 hanno scelto il rito abbreviato. In una affollatissima aula della Corte d'Assise c'è stato solo il tempo per avviare la costituzione delle parti lese e civili, il Ministero dell'Interno, della Difesa, la Regione Calabria, non invece la Lombardia, il Comune di Pavia e i fallimenti di alcune società come la Perego. Nelle abbiamo visto i giovani imputati mandare baci e salutare sorridenti i familiari in aula, mentre invece lo sguardo fiero e perso un po' anche di sfida delle persone più anziane che erano dentro le gabbie. A partecipare a questa prima udienza anche una delegazione di una scuola milanese del liceo artistico, che le accompagnate da una professoressa che abbiamo intervistato. Una cultura proprio della legalità, allontanarsi da tutto ciò che può essere non legale, sia da un punto di vista documentale ma anche come atteggiamenti e come, diciamo, proprio comportamento in una società che deve essere civile. Grazie Raffaella Calandra. E poi c'è il caso Lassini, la Procura di Milano ha inviato proprio questa mattina al Ministro della Giustizia la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del candidato a Milano per il PDL, appunto Lassini, e per Giacomo Di Capua, che è responsabile della segreteria del coordinatore regionale del partito. Elezioni alle porte, clima tesissimo, proprio pochi minuti fa è intervenuto anche il Capo dello Stato. Allora noi ci colleghiamo in diretta con Roma con Elisabetta Fiorito. Sì, campagna elettorale sempre più nel vivo e con scontri a livello nazionale e locale. Dopo la richiesta di meno poteri al Quirinale da parte del Premier Silvio Berlusconi, questa mattina interviene il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Basta con la lotta politica, che è una guerra continua. Le elezioni vogliono dire rispetto reciproco, spero in un'Italia rispettata per la sua immagine civile e morale. E questa mattina l'attenzione si è anche spostata su Milano, sul faccia a faccia tra i due candidati, Letizia Moratti, sindaco uscente, e Giulia Giuliano Gaetano Pisapia, candidato del centro-sinistra. Moratti accusa Pisapia di essere responsabile del sequestro di un veicolo e del pestaggio di un giovane. Pisapia risponde che è un falso e una calunnia. La Moratti ha fatto una cosa vergognosa, strumentalizzando il fatto di essere l'ultima ad avere il diritto di parola. Si riferisce al faccia a faccia su Sky. Sono stato vittima, dice Pisapia, di un errore giudiziario riconosciuto da una sentenza per non aver commesso il fatto. A Napoli invece non si presenta il candidato del centro-sinistra Lettieri, che sfida De Magistris. E per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Il presidente napoletano a pochi giorni dal voto per le amministrative: no alla politica come guerra, voglio rispetto reciproco. Draghi al BCE, svolta Merkel, la Germania potrebbe sostenerlo. Opa, Lactalis, Parmalat perquisite a Milano le sedi delle società coinvolte nella scalata, ci sono anche due indagati. La Libia, Frattini, non sappiamo dove sia Gheddafi, i ribelli è fuggito nel deserto. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Noi partiamo proprio da qui, dalla Libia, dove, lo avete sentito, non c'è più notizia di Gheddafi da qualche giorno. E allora noi ci colleghiamo in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buona giornata. Buon pomeriggio a voi. Alberto, dove potrebbe essere Gheddafi? Ma non lo sa nessuno, non lo sanno i libici, non lo sanno gli italiani, non lo sanno neppure i francesi. Insomma, si bombarda su Tripoli, ma purtroppo nessuno sa che destino abbia avuto o che stia avendo il leader libico. Qualcuno dice, come affermano i ribelli, che sia fuggito nel sud del paese. Però questa forse non è la notizia più interessante. La notizia è che, nonostante queste voci, che Gheddafi sia morto, che sia fuggito, a Tripoli, nonostante le bombe, nonostante i bombardamenti e i raid della NATO, sono scende in piazza. Questo vuol dire che forse credono che il regime sta ancora in piedi. Ecco, quindi tu non vedi la possibilità di questo. Adesso l'ONU, oggi Ban Ki-moon ha chiesto l'immediato cessate il fuoco, l'Italia ovviamente ha raccolto questo appello e ha ribadito il cessate il fuoco, però considerando la situazione sul territorio, secondo te che cosa potrebbe accadere? Beh, innanzitutto ci sono notizie contrastanti. Da una parte i ribelli hanno intrappolato gli uomini di Gheddafi all'aeroporto di Misurata, dall'altra parte a est gli insorti non riescono ad avanzare oltre a Jedabiya, cioè verso i terminali petroliferi, quindi c'è ancora una situazione di stallo dal punto di vista militare. Se poi l'appello dell'ONU verrà raccolto, tanto meglio, ma francamente negli ultimi tempi non mi sembra che le Nazioni Unite abbiano inciso molto su questa vicenda, a parte la risoluzione che è stata un po' lo schermo di una missione umanitaria che poi si è risolta in un conflitto. Grazie all'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Il fronte immigrazione resta caldo, uomini gettati in mare dallo scafista per placare le onde. È l'agghiacciante racconto fatto agli operatori di Save the Children da alcuni immigrati arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa. Sull'episodio sono in corso delle indagini da parte delle forze di polizia. Romolo Napolitano ha sentito Raffaella Milano, responsabile programmi Italia Europa dell'organizzazione umanitaria. Sul lato della plausibilità possiamo dire che si tratta di situazioni plausibili. Questo è diverso da dire cosa è successo nel merito, perché, ripeto, sta alla polizia, alla magistratura, alle nostre forze dell'ordine indagare, raccogliere tutti gli elementi e fare in modo che, se ci sono dei responsabili di queste situazioni, vengano assolutamente assicurati alla giustizia. Può esserci una spiegazione razionale a questo? Cioè, ci può essere un motivo statico della barca? Faccio un esempio. Sappiamo che sono viaggi spesso assolutamente sovraffollati, che quindi poi le condizioni del mare, no, sono barche che non sono attrezzate per avere un numero di persone a bordo così alto, ma tendere ad escludere che ci sia una scelta razionale di questo tipo. Ecco. È stato ipotizzato che li abbiano lanciati in mare per placare le onde, una sorta di rito irrazionale, insomma. Sì, assolutamente, certo. Questo è assolutamente irrazionale, ma ripeto, purtroppo molte cose che accadono in queste situazioni estreme sono assolutamente irrazionali. Un aggiornamento da Milano sull'inchiesta relativa alla Parmalat. Abbiamo parlato di due indagati, sono Fabio Canè di Intesa San Paolo, indagato appunto per insider trading nell'ambito dell'inchiesta sulla scalata a Parmalat di Lactalis, mentre la moglie Patrizia Micucci della SocGen è stata iscritta nel registro degli indagati per aggiotaggio.